tu sentito? È tempo di far la mia vendetta. No, lascia fare a me. Chiedati ed aspetta. Sei tu Nencio? So Dio. Dov'è la sposa? È la che piange. Poverina. Forse non mi vuol per marito. No. Ma sai come son le ragazze? Hanno come le gatte un strano umore. Le senti mio ulare e fa l'amore. Ne vuoi di più? Per carità, Filippo, parlateli per me. Non dubitare. A voi mi raccomando, se potessi parlarmi. Or te la mando. Ma la senti? La sento. Il fuoco addosso mi divora la rabbia e la setta. Non so frenarmi più. Chiedati e aspetta. Che cosa gli ho da dire? Sei tu, Sandrina? Son io, sì. Perché piangi? Perché non voglio. Non t'ha detto padre che domani s'ha da fare il toccamano? Che ho spasimo per te, che io non ho pace. Se deluso rimango, se mia sposa non sei. Dunque non vivo in bene. E Filippo vuol che io dica di sì. Ma tu, Sandrina, se potessi parlare con libertà, mi diresti di no? Dimmelo schiettamente. Non lo so. Sentimi, io non intendo di pigliarti per forza. Ovvio mi volga, avrò 100 partiti, uno meglio dell'altro. E facilmente, se questo matrimonio te non piace, potrò trovarne un'altra e darmi pace. Perché poi non vo per maritarmi avere a tribolar? Posso fidarmi? Fidati e parla chiaro. Io te prometto di non farne lamenti, di non parlar nemmeno all'aria. Or senti, mio padre vuole per forza obbligarmi a sposarti, e tanto, tanto farlo potrei. Ma vuoi che io t'ami? E questo obbedirlo non so. Mi son provata, ma pur me ne rincresce. Credi a me, ciò mio, non mi riesce. Cara semplicità, cercati un'altra, è più bella, è più ricca, è più accorta di me. Sposa, vestino, che per le tue ricchezze t'amerò quanto vuoi, canzetta d'oro, forse ancora io ti vorrò bene allora. Questa vale un milione. Soprattutto, non ti venisse mai detto a mio padre che io ti parlo così. Vorrà proprio farti sposare a me. Mi sgriderebbe, mi bosserebbe forse ancora. Vorrà farmi di dir per forza che io ti vo bene, che son contenta. Ed io, per la pace di casa e per la mia, direi per obbedirlo una bugia. Questo si chiama parlar chiaro. Eppure io non credo, Sandrina, che tu mi dica il vero. Oh, mi fai torto, lo giurerò se vuoi. No, vo' provarmi, voglio farti mia sposa. Amavo anch'io Vespina, or più non l'amo. Traditor! Tu potresti cangiarti ancor. Non lo sperare. Almeno vuoi tentarlo. Chissà, le nozze, l'uso, il tempo, le carezze ti faranno mutare inclinazione. Mi vorrai ben. Ma questa ostinazione? Tante. So che per nanni, per quel guitto di nanni, tu mi disprezzi. E mi son fitto in testa di pigliarti per forza.